fuoco. Attenzione, attenzione, dai. Attenzione all'amico l'isola della felicità, l'isola del compito. E che se mi sono raccarrato a manere. Hola, hola, hola, hola. Presto questo canale alla Italia. Cuidado questo canale alla Italia. Cuidado questo canale, Fresco. Presto questo canale. Vamos a ver se está escuchando la Italia, Roger. Hola, hola. Hola, hola. ¿Me entiende esto canal, esto canal? Fresco, Fresco. Vamos a ver, vamos a ver. Va escuchando la Italia, Roger. Italia, Roger. Ai, ai, ai. Forma del orden, sì. Allora, se piace fare fa 12 per la minore. E poi sacarle un cablecillo e dejarlo lì. Fa 12. Thank you. C'è qualcuno? Hola? Hola? Oh.